Sì, no, è che ti conosco abbastanza, allora. E invece sei venuto, grazie, anzi grazie a te Chiara che sei riuscito a convincerlo, perché appunto secondo me rapito, io da solo non ce l'avrei fatta. È possibile. Io devo dire che se quel lontano giorno del 2000 e non mi ricordo più cosa, però poi ci riguardiamo, mi avessero detto che io sarei poi stata qui in radio con Italo Zuffi, cioè in quel momento non ci avrei creduto. Non ci avresti creso? Non ci avrei creduto. Ma perché? Non ho capito. Ma perché per me è un punto d'arrivo questo, assolutamente. Vedi? Hai capito. Sì. Grande. Ho fatto tutto questo per essere qui in questo momento. No, infatti anzi, ti do il benvenuto, Chiara, e grazie per essere qui con noi, perché... Perché se eravamo solo io e Italo sarebbe stato un disastro. Ma non lo so, adesso vediamo. Però comunque eccoci qua. E perché siamo qua? Siamo qua perché Italo Zuffi inaugura mercoledì una mostra, una retrospettiva al Mambo. Cioè dici mica cazzi, voglio dire, alla Sala delle Ciminiere. E dunque, e dunque siamo qui per farcela raccontare. Io so solo il titolo, che si chiama Fronte e Retro. Che è un titolo un po' inquietante. Sì, perché? Fronte e Retro. Così no. Scusa, a me fa pensare subito l'altro giorno che avevamo Lolli, e mi fa pensare subito agli LP, te li ricordi? Alle fotocopie. Quella cosa che una volta si girava. Sì, ah, certo. Le fotocopie. Vabbè, la fotocopia è Fronte e Retro. Chi è che si è avvicinato di più di noi due? Allora, no, sono belle entrambe. Questa del vinile probabilmente è quella più suggestiva. Capito? Fatto un punto, adesso me li segno qua nella mia stanza. Ma sono buone entrambe. Va bene, dai, è generoso. E quindi Fronte e Retro? Sì. Però tu perché hai chiamato la mostra in questo modo? È una tua scelta o... Ma c'è... guarda, allora, intanto trovare un titolo è sempre... È un lavoro in sé, no? Trovare il titolo giusto fa... Fa l'opera. Completa l'opera, completa il lavoro. E lì ho... No, fate finta che io non ci sia. Non ci sia. Diciamo, il titolo voleva essere un po' anche una forma di sintesi di un progetto espositivo articolato in due sedi. La prima a Palazzo dei Toschi, dove mi era stato chiesto, commissionato delle opere, diciamo, inedite, che poi ho realizzato, ma che verranno mostrate in un secondo momento, non adesso. Quindi si parla di attendere un po' per via dell'emergenza sanitaria, questa mostra viene spostata più avanti in primavera. Ma lì, diciamo, saranno progetti nuovi, quindi questa idea di qualcosa ti fronteggia adesso, quindi adesso davanti a te. Io devo per forza fare una citazione, cioè scusami, ma mi si è aperta questa immagine che io devo per forza citare, che magari non è nei tuoi, come dire, nei tuoi riferimenti culturali o psicoartistico-culturali, però io ho pensato all'Angelus Novus di Paul Klee con questa cosa dell'angelo che avanza arretrando. E subito mi cresce una grandissima aspettativa, perché Italo Zuffi, tu sei un artista, possiamo dire, come potremmo definirti per un pubblico che magari non ti conosce, che sfortunatamente ancora non ti conosce, un artista concettuale, un pataca. Dopo spieghiamo perché Pasquini si prende queste libertà. Sì, infatti, dopo lo spiegherai. Ma allora, intanto, no, provo di dire per completare questo discorso sulla scelta del titolo, appunto perché in una sede saranno lavori nuovi, inediti, dicevo, quindi realizzati adesso, in fase di ultimazione adesso, e quindi qualcosa che ti sta di fronte, che ti guarda dal tempo presente. E invece al Mambo mi è stato chiesto di pensare a un percorso, un progetto espositivo che guardasse invece a quello che mi sta un po' dietro, quindi fronte e retro, anche in questo senso così anche un po' letterale, no? Di quello che si sta producendo in questo momento e di quello che invece è già stato prodotto e realizzato. Il Mambo quindi conterrà sostanzialmente lavori dal 97 al 2020, che sono quindi 24 anni di lavoro, una sintesi, una selezione. Questa è la tua prima retrospettiva? È la mia prima mostra intesa come retrospettiva, perché in alcune mostre precedenti ho inserito assieme a mescolate, diciamo così, tra le opere realizzate realizzate appositamente per la mostra, ho già inserito dei lavori del passato, quindi tentando di tracciare delle combinazioni temporali tra opere che sono nate in contesti e in tempi distanti, quindi forzando un po' la loro coesistenza. Come mi definisco? Non lo so, è curiosa questa domanda, perché non sento di avere una definizione, ma non perché voglia sfuggire la definizione, perché in effetti non c'è, cioè sono un artista concettuale, sì, perché alcuni lavori sono mentali, sono così, guardano un po' a degli schemi, sono lavori molto pensati e che si portano questo pensiero, pensi in maniera molto forte, lo offrono anche allo spettatore, però a volte ci sono anche dei lavori che invece cercano di, che sono frutto di un momento di commozione, ad esempio, quindi lì il concettuale non ci sta più, ad esempio. Mm-hmm. Un concettuale caldo, concettuale caldo. Sì, noi lo diciamo, ma non c'è. Non esiste. No, è stato coniato questo termine, cioè coniato non lo so, però insomma l'ho già sentito utilizzare. Sì, però sono già degli estremi che si vogliono essere messi in contatto. In realtà sono ambiti che hanno dei manifesti che li tengono abbastanza a distanza l'uno dall'altro, però sì. Poi alla fine le cose si mescolano e probabilmente... Comunque mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa il nostro pubblico quando noi diciamo un concettuale caldo. Francamente io credo che non sappia... Devi chiederlo a Gifo, non so, magari lui ce lo dice. Sì, lui probabilmente ci insulta, comunque. Vabbè, questo è nel suo stile. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair, you clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. Here Than Ever si intitola questo pezzo di Billie Eilish, e anch'io sono più felice, ma non potrei essere più felice. Sei felice come un pasquine, come scusa un pasquine, questa, esatto. Questa battuta sono felice purtroppo come un pasquine, mi è venuta, per non avere, per non avere sono riuscita a trattenere un Italo Zuffi qui con me. Fantastico. Senti, fai una domanda a Italo intanto che io faccio un'altra cosa. No, allora io intanto dico una cosa io, perché cioè, si, chi aspettasse poi i miei appunti, io di solito faccio il ritratto dell'ospite, però non mi attento in questo caso. Allora mi astengo, è venuta una cosa un po' più così, cioè un concettuale caldo. Cos'altro possiamo dire di questa mostra? L'hai iniziato a preparare da caso? Pronti? Ah. Abbiamo Lorenzo Balbi al telefono. Sì, però passiamo. Ciao. Va bene che noi andiamo a braccio, però cioè, stavo facendo una domanda. Dovevi farla sì, più veloce, la risposta più veloce. Lorenzo, io ti chiamo perché ho avuto un problema qui in radio, nel senso che qui nessuno sta facendo alcun tipo di divulgazione per farci capire che cos'è sta mostra di Italo, per cui o lo fai tu o non lo farà nessuno. Hai scelto le persone sbagliate lì in diretta. Esatto, ho paura anch'io di avere in studio le persone sbagliate. Certo. Ci puoi pensare tu un secondo? assolutamente sì. La mostra Fronte Retro di Italo Zuffi è una grande antologica di Taglio Museale sul lavoro di uno dei protagonisti dell'arte italiana, soprattutto di una generazione, quella nata appunto alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, che secondo me meritava un po' uno spazio di questo tipo e di questo rilievo, si aspettava un po' un'antologica insomma di Italo. Fronte Retro è concepito come un progetto espositivo su due sedi, quindi al Mambo, dove appunto domani sarà presentata alla stampa in anteprima alle ore 11, mentre da mercoledì alle ore 18 sarà aperta al pubblico. Ci sarà questa grande mostra che raduna opere di Italo Zuffi con un arco temporale che va dal 1997 fino al 2020, diciamo prima della pandemia, un Italo Zuffi pandemico. E invece in occasione della prossima edizione di Art City, negli spazi di Palazzo dei Toschi e spazi della Banca di Bologna, ci sarà una seconda parte di questo progetto espositivo che ho il piacere di co-curare con Davide Ferri, con esclusivamente nuove produzioni, quindi un Italo Zuffi transpandemico con delle nuove produzioni pensate apposta per questa occasione a Bologna. Fantastico. E dunque che cosa ci dobbiamo aspettare da questa mostra? Vi dovete aspettare di uscire, di vedere una mostra che cerca di tirare un po' le fila sul lavoro di un artista, mettendo insieme lavori appunto di anni molto diversi, lavori che illustrano il lavoro e la produzione dell'artista con assolutamente differenti media, quindi si va dalla scultura, che è molto presente, al video, l'installazione, fotografia, la performance, e soprattutto dovete aspettarvi di avere una mostra, come abbiamo un po' abituato al Mambo, che non è la stessa dall'opening fino all'ultimo giorno, in quanto molte sono le opere, gli oggetti e le azioni che si succederanno all'interno della mostra, già a partire dall'opening di mercoledì, ma poi per tutta la sua durata. Quindi la mostra e gli oggetti che sono contenuti in essa, molti di questi sono oggetti che verranno attivati, spostati, trasformati, sostituiti dalla mostra stessa e dalla relazione con il pubblico e con i performer. Io ti ringrazio moltissimo, Lorenzo, non so se Chiara aveva qualche domanda per te, altrimenti ti lascio alle tue bambine, che so che sei solo oggi. No, io mi hanno lasciato in allestimento, e di questo potrete chiedere conto a Zuffi lì vicino a voi, e con delle bambine 5 anni che urlano all'interno dello spazio espositivo. Speriamo che rimangano in mostra per tutto il tempo, per tutta la durata della... Okay. Io devo dire che sono entrata un attimo e ho visto questo incipit nella zona di solito che è dedicata, come dire, alla presentazione in nuce dello statement della mostra, e le due bambine erano perfette, quindi non so, vedete voi. Loro si divertono tantissimo in mostra, e soprattutto dicono ai loro compagni di asilo, della scuola materna, pensano che ogni papà abbia un suo museo, che lo trovo un concetto molto interessante da dire. Certo, cosa sta facendo il tuo papà nel suo museo? Questo è uno dei sogni più belli in assoluto che potremmo pensare di avere. Penso di sì, però in realtà sono anche delle acute osservatrici e prima mi stavano rileggendo questo video nella prima sala della mostra di Italo Zuffi, che è un video in cui uno strano personaggio diciamo che cammina attorno a una grande piscina, e mi stavano dicendo che faceva questo perché in realtà aveva paura di fare il bagno perché l'acqua era fredda, e quindi adesso chiederò a Italo se è vera questa cosa, se può essere verosimile, però hanno una vena interpretativa notevole, devo dire. Molto bene, io ti ringrazio moltissimo e poi naturalmente ci vediamo domattina alla super preview di Italo, che non vedo l'ora di vedere. Grazie, vi ringrazio molto per questo spazio e ovviamente invito tutti coloro che ascoltano da mercoledì alle 6 al Mambo per la mostra Fontereto di Italo Zuffi. Assolutamente, grazie Lorenzo. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Fantastico, se non ci fosse Lorenzo Balbi bisognerebbe inventarlo. Comunque questa cosa di un museo per ogni papà è bellissima, bello, sì. Cioè mi sembra è la soluzione forse, finalmente. L'arte contemporanea avrebbe anche un pubblico. Un museo per ogni papà. Un museo per ogni papà, ma anche per ogni mamma, dai, facciamo così. Non si sa, no? Forse è più interessante per ogni papà, però sai, di questi non vorrei. Comunque io mi devo scusare se i volumi non erano corretti durante questa telefonata. Siamo ognuno con un volume un po' diverso, poi. Ma questo per questo devo ringraziare Mario Vox, che simpaticamente mi aveva legato la cuffia al mixer, proprio con un doppio legaccio. Apposta per fare il dispettuccio. Esatto. Ecco, e adesso però questa trasmissione così, che un po' a braccio come avevamo un po' annunciato al nostro ospite, sta quasi per nuovamente subire un'interruzione, giusto? No, lo avviso perché poi sennò ci si rimane male. Quanti minuti abbiamo per... 4 minuti. 4 minuti sono un tempo lunghissimo, quasi un'eternità. Quasi un'eternità. Non lo so, cosa è cambiato dal 2007 a oggi? Che domanda complessa. Dal 2007? Dal 97 al 2020. O dal 2007, scusa. Sì. Però chissà perché mi è venuto in mente il 2007. No, perché sto guardando Inside Job, allora 2007-2008, forse per quello. Comunque intendevo dal 97 al 2020, no, dal 2007 a oggi, ma non ce la posso fare. In effetti, perché come mai è cominciato comincia nel 97, l'opera più vecchia del 97? Allora, questa è stata una scelta legata a un'esperienza fatta a Londra di studio. Mm-hmm. Che hai finito nel 97? No, l'hai finita molto prima. Nel 96-97, però okay. Diciamo, io andai a Londra sulle tracce di Stefano, e quindi l'ho già ringraziato, ma posso ringraziare. Cioè io in alcuni passaggi ho un po'... mi sono, diciamo così, un po' lasciato ispirare da quello che stava facendo Stefano. Quindi Stefano era in Inghilterra, mi sembra. Sì. E quindi andai anch'io in Inghilterra e così trovai una scuola che mi interessava e decisi poi di iscrivermi a un corso di studi. Beh, hai fatto una cosa molto più intelligente di me. Io sono andato là a lavorare come postino del Royal Albert Hall, e tu sei andato al St. Martin's a fare una scuola della Madonna. Quello che facevi era molto bello. Cioè lui era ispirato da te, però faceva le cose un po' in bella copia, come esatto. Dire, no? Cioè tu facevi la brutta e lui esatto. Diceva mi ispiro, diciamo adesso faceva le cose molto meglio. Stefano ha fatto anche mostre a Londra, cioè era molto attivo in realtà, quindi... Non è che facessi solo dei lavori per sostenersi, però ecco, diciamo, io un po' ispirato dal fatto che lui fosse là, ero andato e mi ero iscritto a questo corso di studi al St. Martin's College, e fu una cosa azzeccata. Devo dire che è una delle cose ben fatte della mia vita fin qua, è perché fu un modo per iniziare in maniera libera, diciamo, una ricerca che fino a quel momento non avevo ancora sviluppato. Così mi sono sentito allora e così mi sento ancora oggi. cioè fu proprio un momento fondativo per me, e quindi alcuni dei lavori che sono in mostra sono di quell'anno, proprio per dire ok, magari c'era qualcosa anche prima di allora, sicuramente delle intuizioni, dei lavori, però quelli momenti in cui prendo consapevolezza di una ricerca. Ah, vedi, ma sì. Guarda, no, interessante il 97. Tu lo sapevi? No, non sapevo questa cosa. Non sapevi cosa. Di essere stato così importante per... No, io non sono stato importante. Ma no, ma gliel'ho detto, ma non gliel'ho detto bene forse, no. Però sì. No, vabbè, ma perché adesso gioca a fare il modesto, cosa che lui assolutamente no, non è. No, perché comunque non so, io non forse senza cuffia non ho sentito, ma l'hai detto che era io e Italo ero... No, aspettavo di dire, no, lo aspettavo nella seconda parte, perché mi sembrava che fosse un capitolo. Sì, va detta questa cosa. Va detta questa cosa, però la diciamo dopo, così facciamo il teaser e la gente si ricollega poi dopo, non ci abbandona. Siamo qui per caso, diciamo. No, dobbiamo dire una cosa importantissima dopo la pubblicità. Molto bene. Allora, a questo punto direi che possiamo ascoltare questa cosa qua. Anche per quest'anno scolastico, l'istituzione. Sono Cesare Pietro Iusti. E stai ascoltando Coxo Spaziale. Hai capito? Avresti dovuto mettere l'altro Cesare Pietro Iusti, secondo me, stasera, sì. Per farmi veramente felice, sì. Aspetta. Quindi preparalo, lo mandi dopo, va bene? Adesso dobbiamo dire una cosa importante. E io pensavo che uno dei riferimenti di Italo Zuffi fosse Paul Klee, invece è Stefano Oda. Anche Paul Klee. Spaventoso. E quindi, vabbè, spaventoso. Ma vabbè, perché questa è una cosa un po'... Perché tu devi sapere che tre sono i grandi dell'arte. Paul Klee, Manzù e Pasquini. E Pasquini, certo. Ma no, perché c'è un aspetto sentimentale che abbiamo evidenziato, no? Nella ricerca di Italo Zuffi, e Pasquini fa parte dell'immaginario sentimentale di Italo, perché lo dite voi, lo dico io, perché erano a scuola insieme al liceo artistico. Cioè, io ho esordito qui nel programma dicendo prof is the new artist, quindi sono sensibile a tutta la tematica scolastica. Mi sembra il vero momento fondativo deve essere per forza stato quello. Noi nel 1900, a ottobre del o settembre del 1984 ci siamo 83, hai ragione. Urca. Tu ci siamo trovati per sbaglio entrambi nella prima E del liceo artistico di Bologna, che adesso si chiama Arcangeli, ma al tempo non si chiamava Arcangeli. E come si chiamava allora? Si chiamava Liceo Artistico Statale Bologna, perché Arcangeli mi sa che era ancora vivo al tempo, forse, boh. Non lo so. Ah, ok. Esatto, ed era di fianco all'obitorio. Fra l'altro c'è un gruppo Facebook che si chiama Il Liceo Artistico di fianco all'obitorio. Cioè, ci ha portato un po' sfiga, vuoi dire, questa cosa? No, vabbè, no, è perché ogni tanto come vedevamo... l'hai descritto, sembra che sia nato per, senza darsi un nome, in attesa di potersi chiamare Arcangeli. Esatto. Cioè... Sì, una cosa del genere. Vabbè. No, comunque era un po' inquietante, perché alle volte dall'aula guardavamo dentro alle finestre e vedevamo i personaggi distesi, sì, distesi nell'obitorio. Ma insomma, comunque, insomma, diciamo che questo vi ha un po' formato tutta una generazione, perché il rapporto tra l'arte e la morte è importante. Ah, cioè, certo. Nel senso, quindi, voglio dire, giustamente. Dove lo fai al liceo artistico? Cosa ti è rimasto del liceo artistico, Italo? Allora, sono rimaste così tante cose. Dai, sono stati anni... incredibili, no? Io mi ricordo, io facevo il bullo e lui veniva bullizzato. Lui poverino veniva da Imola, e cos'era il 99, l'autobus? Il 101, cioè alle volte che passava una volta ogni mezz'ora o forse ogni ora, e noi alle volte lo tenevamo giù così potevamo alla fermata, capito? Allucinante questa cosa. Una roba bastardissima, sì, pensa che loro mi impedivano di salire sull'autobus e poi ce ne andavamo a casa e se ne andavano, non è che rimanevano con me, se ne andavano. Esatto, non è che dici vabbè, volevamo passare un'altra mezz'ora con lui, no, volevamo proprio fare gli stronzi, fare gli stronzi e fare che era bullismo, sì, però era, era bullismo totale, vabbè, ma poi ma erano altri tempi. Ma secondo me questo può aver avuto esatto. Perché e giustamente adesso Italo giustamente si vendica, si è fatto anzi, le ossa. Io in realtà pensavo che una delle vendette fosse quella proprio di dirmi sì sì vengo a Coxo Spaziale e poi naturalmente non venire, invece sei stata brava che l'hai preso di peso e l'hai trascinato, non l'ho bullizzato io esatto. Quando ci siamo conosciuti e quindi è andata così. Ma pensa che io quando mi sono iscritta in accademia c'era il mio professore di anatomia artistica Davide Benati, mm-hmm, che ci trattava tutti malissimo perché cioè, sosteneva che niente, per il sistema dell'arte bisognava essere pronti caratterialmente. Quindi ma infatti forse aveva molto ragione. Hai svolto inconsapevolmente nella tua adolescenza disturbata, esatto, questo ruolo formativo, diciamo, da un punto di vista caratteriale. Quindi non sei forse un riferimento artistico, ma un riferimento comportamentale, diciamo. Non so se prenderla come un'offesa. Dai, ne parliamo dopo, però il comportamento infatti è importante nel tuo lavoro, Italo, o no? Il comportamento? Cioè, come... Perché è curiosa, non è... Sì, suona... Mi incuriosisce questa definizione. Comportamento legato al corpo? Dai, il comportamento rispetto... Come ci si posiziona... E quali forme si possono mettere in atto per comportarsi rispetto a una certa situazione? Non so, a me suggerisce un po' questa la tua ricerca, però forse è una chiave di lettura un po' così, un po' sballata. Io sono curiosissimo di questa mostra perché, per esempio, ecco il video del perimetro della piscina, io non l'ho mai visto. No, non lo conosci? Ho sempre solo visto la foto di quel video, sì, però non ho mai visto il video. Questo per è cui, proprio nella prima sala, lo trovi lì. Mm-hmm. E... devo dire che anche a distanza di anni, perché è un video del 2000, mm-hmm, e a distanza di anni ha ancora una sua, sì, una sua forza, non so, lo rivedo, i lavori, diciamo, li sto rivedendo in questi giorni, alcuni dopo anni, decenni, perché realizzati appunto a cavallo degli anni 2000, sono stati poi alcuni messi in cassa, no, anche perché c'è stato un attimo in cui eri veramente sulla cresta dell'onda e uno in cui ero sotto la cresta dell'onda e, dopo altro... e uno in cui l'onda ti ha ribaltato e adesso stai risalendo so se sto risalendo, diciamo che è il momento. Beh, io devo dire che a me fa molto piacere quando ho saputo che stavi facendo una personale al Mambo, devo dire che mi ha fatto molto piacere perché naturalmente te lo meriti, ma anche proprio perché mi faceva piacere che la tua città tra virgolette finalmente vedesse un numero 50 tuoi lavori, che insomma non sono, sì, abbiamo tolto qualcuno perché non ci stavano tutti, 47 sono, vabbè, dai. No, io ho letto il comunicato stampa ieri e diceva 50, per cui insomma, quante sono adesso, comunque, perché i numeri sono importanti, ma allora lì ci sono delle questioni che sono, diciamo, di, cioè state litigando con Anna Rossi ancora tuttora, no? Com'è? Cioè, lì si va un po'... è difficile perché, ad esempio, per le serie fotografiche che si compongono, ad esempio, di 10 immagini, tu lo consideri un lavoro? Beh, se già parli di serie, forse certo. Sì, devi dire uno. Allora... Beh, dipende, insomma, però perché quando li vendi uno alla volta. Una alla per volta. Cui, sono 50 lavori, dai. Non ti preoccupare. Vabbè, facciamo il 150. Vabbè, sì. Però il Mambo non è una sede commerciale, adesso possiamo permetterci anche di dare una lettura. Ho capito, però i numeri non sono un'opinione. Insomma. Vabbè, insomma, io voglio sapere che numero devo scrivere qui, perché ho tutti i numeri che poi i nostri beniamini devi sapere, Italo, che Chiara è una numerologa, sì, per cui sì. I numeri sono importanti. Ma invece... Invece, io nel frattempo, visto che è passato un angelo, sì, voglio leggere la definizione di comportamento, perché l'ho trovato sulla Treccani. Sì. Modo di condursi dell'individuo rispetto all'ambiente in cui si trova e alle persone con cui è a contatto, contegno, condotta, risultato fornito da una sostanza o da un corpo sottoposto a prove tecnologiche o a variazioni di natura fisica o chimica. E a me piace questa cosa. Guarda, ti dico... Ci sono dei lavori che sicuramente danno delle indicazioni di comportamento. sì, di portamento anche di, sì, d'accordo. E poi ci sono, diciamo, in questi ultimi anni ho lavorato molto con la performance, dove in questo caso il comportamento è quello che viene indicato al performer in base alla, così, istruzione, movimento. Sì, sì, sì, non mi piace questa definizione, non ce l'avevo. Allora, se la userai, ricordati sempre il di dire, certo, che l'ho detto io. Ma sì, no, così, ma per un fatto proprio così di orgoglio personale, no? D'accordo. Senza, proprio così, solo okay. Così, d'amblè. Ma perché tu invece, io ti ho sempre pensato come uno scultore, dai tempi del, anzi te lo volevo chiedere, ma ci sono i cosi di cera, gli osservatori di cera, che mi piacevano tantissimo. Allora, purtroppo non siamo riusciti a recuperare quella prima versione in cera, okay. Ce n'è uno in gesso. Ah, fantastico. Sì, con graffiti. Mm-hmm. Si chiama proprio Osservatori Trasportabili con Ipotesi di Graffiti e sono un gruppo di 5 del 98, mi sembra, quindi realizzate subito dopo quelli in cera. Ok. Sì, ci sono, perché quello rimane un lavoro importante, evidentemente. Anche questa idea di lavorare sull'osservatorio astronomico. Poi ci sono altri lavori, sempre di scultura, dove gli osservatori astronomici sono presentati come se fossero stati deflagrati, diciamo, spinti. Tu hai usato tanto la scultura nel tuo lavoro. Sì, però se ti ricordi, io ho studiato pittura. Infatti, certo che mi ricordo. Ho studiato pittura, perché poi eravate insieme anche all'Accademia dopo, cioè Stefano cultura. era un anno avanti, ma tu hai fatto pittura con Pozzati anche tu? No, con Pozzati e poi con Garutti. Ah, dopo sei passata a Garutti. Però infatti, attenzione, io iniziai a dipingere molto prima piccolo, di tutti gli altri, piccolo, certo, sì. Io mi ricordo sono andata alla sua prima personale, che avevamo 15 anni. No, avevamo 18-19 anni. No, eravamo in terza qua. No, era sicuramente l'88-89. L'88-89, no, l'88. Assolutamente forse no. L'87, il serpente allora, d'argento, 87. Secondo me 87, vabbè, 17 anni, dai. Però era bella, cavoli, era già, cioè, era una mostra, cioè, a tutto tondo, riuscita, cioè, con un paio di dipinti. No, lui era bravissimo, infatti lui stava sul cazzo a tutti, perché noi lo bullizzavamo per invidia, assolutamente, perché era proprio presente quelli lecchini che disegnano perfettamente, tutto proporzionato, con anche tutto il tratteggio per bene, capito? Cioè, c'era Galgano che lo adorava, capito? E invece noi eravamo dei gran panca bestia, certo. E dunque appunto è un'altra estetica, Stefano, esatto, basta dire questo, sì, no, utilizzavamo un'estetica opposta e a un certo punto lui, bello come il sole, capito, ma venite alla mia mostra, faccio una mostra, andiamo tutti a Imola, capito, e questo stava già, noi nessuno di noi aveva ancora toccato l'olio, proprio per paura del medium, che non ci insegnava, no, al liceo artistico, l'olio, capito, e invece lui era già lì che faceva delle tele tipo 120x80 dipinte a olio, di questo, mi ricordo, questo serpente fluorescente iperrealistico, cioè, ma era bellissimo. Ho ancora le mie prime pitture, perché anch'io dopo, quando mi sono iscritta all'Accademia, non ho mai più toccato un pennello, certo. Cioè praticamente neanche per sbaglio mi ero iscritta pensando adesso finalmente imparo a dipingere, esatto. E lì è finito proprio, sì. Prima disegnavo anch'io un certo numero di serpenti, che non sono minimamente confrontabili sicuramente, però mi è sorta una certa curiosità. Mm-hmm. Però questo non si vedrà nella mostra. No, non c'era reale. No, perché altrimenti sarebbe stato 1987. Non ci stava. Però potremmo fare una terza mostra. Potremmo fare una terza mostra che va dall'87, esatto, al 97. Dalla nascita. No, perché al 97. Cioè, vogliamo parlare anche del 3 zoom. Non lo so, a questo punto. Dopo la pausa musicale. La pausa musicale. Sì, dobbiamo mettere una pausa musicale. Facciamo così. Non so se parte. Beh, qua c'è del suono. Sì. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that's just your call art. Fuck you and your friends. catch a dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Ma dunque la mostra che ci sarà in primavera da la mostra Fronte a Palazzo Poggi, la mostra Fronte a Palazzo De Toschi. Ah sì, su, scusa. Rimane, cioè riusciremo ad avere entrambe le mostre? No. Una finisce e l'altra comincia. Ah, sì. Non ci sono contemporaneamente. Beh, no, però credo. È logico, è giusto. Però io non ho ancora le date, ma non credo. Comunque. Ah no, anche perché appunto non ci sono ancora le date ufficiali di Arte Fiera, per cui. È che non puoi guardare Fronte Retro contemporaneamente. Cioè, Anche questo, sì, hai ragione. Una buona osservazione, certo. Ho capito. Quindi, vedi, o sei sull'altro, sei sull'altro. Sì. È molto coerente, diciamo. È molto coerente, sì. A meno che non sei Gary Hill che fa entrambi con una doppia proiezione. Comunque. L'angolo della menzione. Non sei l'unico che inaugura mercoledì, perché alle 16 del 19 gennaio apre a Bologna The Room, uno spazio dedicato alla comunicazione della sostenibilità e all'arte che in occasione presenta la mostra Il cerchio spezzato a cura di Eleonora Frattarolo. Te la ricordi Eleonora Frattarolo? Beh, certo, come la ricordo. No, chiedevo a Italo. Io stata una prof, cioè era prof di non so se lo è ancora, non credo. Ma prof di storia dell'arte della ancora? No. Ok, fatto sta che è un organigramma sotto mano, È una collettiva in uno spazio nuovo che si chiama The Room con tre O, The Room. In Via Galliera numero 8 nella cornice storica di Palazzo Aldrovandi Montanari, e abbiamo, senti, non so se adesso mi chiedo se te la ricorderai Italo, comunque abbiamo 7 artisti: Rufo Ism, Paolo Magliazza, Edoardo Sessa, Angelo Maisto, Luciano Leonotti, Andrea Valsecchi e Silvia Vagni. Li conosci? Hai mai sentito parlare di alcuni di questi? Io di nessuno, a parte Silvia Vagni, che tu ti ricordi chi è? Non c'è non una te lo, risposta non mente. Te lo ricordo, non so se no, perché non siamo, capisce siamo di nuovo al tempo adesso dei licei artistici. Io ero innamoratissimo di Silvia Vagni, okay. Cioè lei è detta Minnie, sicuramente se dico Minnie te la ricordo, sì. E dunque naturalmente prima di venire da te mercoledì mi toccherà di andare a vedere come sta la carissima Silvia Vagni, che saluto, e poi se riesco la invito anche a Coxo Spaziale. Dopodiché aspetta che ce lo stacco. Comunque il sito è theroom.it, nel caso theroom con tre o.it. Dopodiché naturalmente il 19 gennaio dalle 18 alle 22 apre Italo Zuffi fronte e retro e si sente anche il rumore della porta che si apre. Mamma mia, cioè l'hai cercata sai com'è. Mostra cose. Cura di Lorenzo Balbi, che abbiamo sentito al telefono prima, e Davide Ferri. Davide che cosa Ferri, che, sì. Davide Ferri è da tanto che ti segue come... Davide Ferri mi segue dal 2006. Però non ti ha ancora acchiappato, no? Come? Mi segue, ma non ti ha ancora acchiappato. Sono le battute un po' alla Coxo spaziale, cioè pazienza. Ma così è una battuta. Sai com'è? vuoi chiudere la porta magari? No, perché magari io in cuffia sento le persone che sono. Sento le amiche che della prossima trasmissione. Un po' di sonorità qui. Ma sì, va bene. Un po' di rumorismo. No, anche perché fino alla settimana scorsa non c'era mai nessuno qui, invece oggi sono tornati tutti, per cui buon anno. E questo naturalmente è al Mambo, dopo continueremo a parlarne, ma è al Mambo in via Don Minzoni 14. E vi dico anche perché. No, io so che ci sono delle discrete manine corte in giro che ci ascoltano, dicevo, vedere dove vuoi andare a parlare, mercoledì dalle 18 alle 22 l'ingresso è gratuito, per cui se volete risparmiare quei 6 euro di ingresso per vedere la mostra di Zuffi, potete farlo dalle 18 alle 22 di mercoledì. Non credo che bisogni prenotare, ci sono delle regole, io penso che faranno un po' di, cioè ci sarà la fila faranno un po' di dal Mambo fino alla fine di via Zanardi, per cui arriverà fin qua sotto la fila, però non bisogna prenotare. Oppure comunque controllate su mambo-bologna.org. Mentre invece giovedì Xing, che conoscerai benissimo anche loro, presentano Xong Collection, dischi d'artista Giampiero Cane e Daniela Cattivelli con Post Fanta Musicologia, LP Launch and Public Listening. Praticamente esce un nuovo vinile in edizione limitatissima di Giampiero Cane e Daniela Cattivelli, che si intitola Post Fanta Musicologia, per Song Collection. Alle 19.30 la presentazione dell'LP prenderà forma di Public Listening in via Mascarella, nel negozio di dischi più piccolo del mondo, che è il mega store di Sonic Belligeranza. Anzi, salutiamo DJ Balli e lo invitiamo a venire a Coxo Spaziale e anche da Modo Info Shop, per cui in entrambi i posti. Comunque questo è un altro episodio da non mancare, e questo è appunto il giovedì 20 gennaio alle 19.30, in via Mascarella, in via Mascarella generico, e trovate tutto su www.xing.it. Finite le menzioni, ci sarebbero delle altre cose, ma dobbiamo sviluppare il discorso. Intanto il discorso di Italo Zuffi. Lancio subito l'appello ufficiale a Lorenzo Balbi per questa terza mostra, da fare poi in un momento successivo, dall'83 al 97, che mi sembra... Dalla nascita, scusa, per carità del cielo. Anche perché lui comunque era veramente spaventosamente creativo, cioè lui faceva la fanzine del liceo artistico da solo, si chiamava Tre Zoom, cioè, e poi riusciva anche a venderla e a non dico a guadagnarci, comunque riusciva a non perderci. Era il costo di una fotocopia, praticamente. Esatto. Quel costo che ha riscosso così tanto successo che addirittura altri studenti si sono messi a fare altre fanzine, capito? Cioè un caposcuola proprio. Un caposcuola totale. Fatto e finito. Esatto, fatto e finito. Allora veramente. Non mi meraviglio di questa cosa. Per cui secondo me sarebbe anche molto saputa. Interessante, perché poi adesso da fuori non si vede, ma Italo fa ridere davvero quando ne ha voglia. Quando ne ha voglia. Io speravo di punzecchiarlo, di tirar fuori una battutaccia, invece no, non ce la sto facendo, però ci riprovo poi domani al Mambo. E la registrerai e poi dopo noi la manderemo in onda. Potrei farti qualche domanda super inopportuna. Ma prova, vediamo. Domani alla conferenza stampa. Ah, proprio così? Sono domande domani? No, non lo so. La conferenza stampa dovrebbe essere fatta per questo. Poi dopo in realtà... Proprio seduti con le domande. Nessuno le fa mai. No, non è vero. Aspettati la pausa. Paola Naldi, sicuro ti chiede delle domande su chi ha pagato la mostra, come avete fatto. Questo c'è, sì, tutto l'apparato. C'è tutto l'apparato. C'è chi risponde, c'è per chi risponde. Lui. Il manuale tecnico attivo di Capitan Arlo, te lo ricordi? Il manuale spaziale tecnico attivo di Capitan Arlo. No, vabbè. No, è che vedendolo qua mi vengono in mente cose di quando avevo 13-14 anni. Un flusso di coscienza che adesso, esatto, non riuscirò. In realtà abbiamo generato un mostro. Io con questa mia idea di portare qua Italo. Sì, no, infatti. Adesso diventerà no, una cosa bella. Italo, tu dovevi vedere quanto era esaltata Chiara per averti, veramente. Ah, sì, no, assolutamente. Abbiamo già parlato di te in una trasmissione che tu non hai ascoltato perché hai avuto paura e hai detto no, non sì, voglio sì. sapere. Io faccio sempre così, non riascolto mai niente. Non... Ah, ok. E ho sempre paura di ascoltare delle cose. Mi sembra un'ottima idea, no? E io non credo. No, in realtà incredibilmente su www.coxospaziale.blogspot.com, dove fra l'altro ritroverete i link delle menzioni che abbiamo detto, c'è un sacco di gente che va a riascoltare le puntate. Sì, alcune hanno avuto mille visualizzazioni, che è spaventoso. Allora, sì, sì, assolutamente. Beh, in quella puntata che fu due volte fa, se non sbaglio, esatto, se non sbaglio, perché la volta scorsa eravamo solo parlammo della tua performance Bologna contemporanea, certo, 1900, non mi ricordo cosa. 2010 forse. Era 2010. E scriviamo, esatto, un altro numero, poi dopo li diamo agli ascoltatori che li possono giocare all'otto e perdere. E abbiamo anche fatto ascoltare un pezzetto della performance. Sì, abbiamo certo, andato in io onda. Non sapevo che fosse su YouTube, me l'ha detto la tua fan numero uno, per cui okay. Sì, no? Lì si può trovare, è stata caricata lì sopra, sì. Però questa non ci sarà una documentazione. È documentata questa performance o è solo... Allora, attenzione, perché noi abbiamo pensato di realizzare due performance di inaugurazione. Una si chiama Rassegna Stampa, che è un po' complesso, un po' appunto concettuale, non la raccontiamo, ma posso raccontarvi, anticiparvi l'altra. Mm-hmm. E abbiamo invitato i Madcaps, che è questo gruppo musicale con cui ho collaborato negli allora anni. Allora erano proprio loro che eseguivano quel pezzo. E eseguirono proprio al Mambo, giù nella sala, come si chiama, sala conferenze. Mm-hmm. Realizzarono questo Bologna contemporanea, cioè la composizione del brano l'abbiamo fatta assieme e loro hanno fatto l'esecuzione e loro saranno presenti mercoledì e eseguiranno dal vivo i quattro elenchi, così si chiamano, realizzati, fatti con loro nel corso degli anni. Elenco perché Bologna contemporanea, diciamo, venne eseguita elencando tutti i nomi degli artisti presenti su quella pubblicazione e in quella mostra, realizzato insieme nel 2005. Mm-hmm. E quindi realizzeranno quello e altri tre elenchi. E il primo elenco in assoluto fu fatto nel 2000 a Scandicci al Teatro Studio, dove loro declamarono. C'ero io lì. C'eri? Sì. Ma dai! C'ero, anzi, che secondo bello. Me ho anche dei pezzetti di video. Ah, fantastico! Mm-hmm. Beh, allora ne parliamo, perché mi piacerebbe recuperarli. E lì declamarono i nomi delle gallerie con cui stavo lavorando, avevo lavorato o mi sarebbe piaciuto lavorare. Ah, vedi? Quindi fantasie, gallerie irraggiungibili a New York, a Londra, eccetera. Poi fecero Espresso, Arte Adesso in Italia, quindi gli artisti di Espresso, okay, sempre declamando la lista, e poi gli artisti su una di queste classifiche di Flash Art. I 100 migliori artisti di un anno. Dal primo, che forse era Roberto Cuoghi o Catalan, non mi ricordo, fino alla mia posizione. Hai capito, grande. Quindi ci saranno, venite ad ascoltarli dal vivo. Se c'è già una data per questo evento? No, l'inaugurazione. All'inaugurazione. Certo. Perfetto, ma allora è fantastico, no? Io non mancherò. E dunque il tempo è finito, dobbiamo dare a tutti. Sono le 20 spaccate, vedi come fugge. Dobbiamo dare a tutti l'appuntamento al Mambo mercoledì dalle 18 alle 22. Esatto. E il Mambo è in via Domenzoni 14, nel caso vi siate persi. Io ringrazio tantissimo Italo di essere venuto. Grazie, qua, fra l'altro, cioè, avendo fermato le ultime rifiniture grazie dell'allestimento, e io ero Chiara Pergola, io ero Stefano W. Pasquini, e come al solito ci salutiamo con le simpaticissime parole del nostro direttore di radio, che dice così: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. grazie Italo di essere venuto. Grazie a voi. Grazie. Questo grazie era Coxo Spaziale, noi ci si risentiamo lunedì prossimo sempre alle 19. Io yeah. No, non ci sarò. E io sì. Danger. It's just in your nature. Look for me, stranger.